Bufera d'aprile. Erano tornati nella loro piccola casa in mezzo alla prateria. Fuori la neve era scomparsa del tutto. Un velo di erba nuova copriva la terra come una nebbiolina leggera e i campi arati si stendevano neri e fertili sotto il sole. Quella mattina Laura aveva studiato 2 ore. Stava sparecchiando la tavola quando l'occhio le cadde sui libri che aveva lasciato lì per riprenderli dopo pranzo. Fuori la brezzolina la invitava invece ad andare a passeggio con Carrie e Grace. No, doveva studiare. Vado in paese questo pomeriggio, disse papà mettendosi il cappello. Ti serve qualcosa, Caroline? A un tratto la brezza si mutò di colpo in un vento gelido. Laura lanciò un'occhiata fuori dalla finestra. Pa! Esclamò. Sta arrivando una bufera. Possibile, così tardi in aprile? Papà andò a guardare fuori. Il sole era scomparso, il vento era aumentato e aveva cambiato suono. Un attimo dopo la tempesta investì la casa. Un turbinio bianco prese a tempestare i vetri. Da ogni fessura entravano spifferi gelati. Ci ho ripensato, disse papà. Meglio che stia a casa oggi. Avvicinò la sedia alla stufa. Meno male che le bestie sono tutte nella stalla. Andavo in paese giusto a comprare la corda per metterle fuori i picchetti. Kitty, la gattina, era spaventatissima. Era la sua prima bufera e non sapeva che cosa aspettarsi. Le si era rizzato tutto il pelo. Cercando di calmarla, Grace scoprì che se la toccava scoccava una scintilla. Non ci si poteva fare nulla. L'unica era evitare di accarezzarla. La bufera imperversò per 3 giorni e 3 notti. Papà dovette sistemare le galline nella stalla perché non morissero congelate. Faceva così freddo che passavano le giornate stretti attorno alla stufa e anche se la luce era scarsa, Laura non fece che studiare. Se non altro, pensava, non viene nessuna voglia di uscire. Il terzo giorno la bufera lasciò la prateria coperta da uno strato di neve fine e ghiacciata. L'indomani era ancora tutto bianco quando papà si preparò per andare in paese. Al ritorno disse che la bufera aveva fatto 2 morti. I due erano arrivati in treno dall'est il mattino, quando il tempo era ancora bello. Erano andati a trovare degli amici in una concessione a sud della città e da lì, poco prima di mezzogiorno, si erano avviati a piedi verso un'altra fattoria che distava un paio di miglia. Il maltempo li aveva colti per strada. Finita la bufera, tutti i coloni della zona erano usciti a cercarli. Li avevano trovati accanto a un covone assiderati. Era gente dell'est, non sapeva che cosa fare. Disse papà. Se si fossero infilati dentro il covone e avessero tappato il buco dall'interno col fieno, forse sarebbero riusciti a sopravvivere. Già, ma chi si aspettava una bufera del genere a fine aprile? Disse mamma. Non sai mai cosa può accadere. Preparati al peggio e avrai motivo di sperare di cavartela al meglio. È l'unica cosa da fare. Ci siamo tutti preparati al peggio prima dell'inverno, pa, disse Laura. Ed è stato tutto lavoro sprecato. Non c'è stata una sola bufera finché non siamo tornati qui. E qui non eravamo preparati. Beh, in effetti sembra proprio che queste bufere, per un verso o per l'altro, ci becchino sempre, riconobbe papà. Non vedo come si possa fare a essere preparati a quello che succederà, disse Laura. Uno si aspetta una cosa e invece ne succede sempre un'altra. Laura, disse mamma. È così, ma, rispose Laura ostinata. No. Ribatté mamma. Anche le condizioni del tempo hanno una logica, sebbene a te non sembri. Tanto per cominciare, le bufere di neve vengono solo nelle regioni dove si sa che possono venire. Può succedere che uno abbia tutte le carte in regola per fare l'insegnante e non lo diventi mai. Ma puoi star certa che se non hai l'abilitazione, insegnante non diventi di sicuro. Era vero. A Laura venne in mente che anche mamma aveva fatto la maestra. Quella sera, quando mise via i libri per darle una mano a preparare la cena, chiese: Per quanto tempo hai fatto la maestra, ma? 2 trimestri. E dopo cosa è successo? Beh, ho incontrato tuo padre. Ah, disse Laura. Chissà che anche a lei non sarebbe toccata la fortuna di incontrare qualcuno. Così magari non le sarebbe toccato fare la maestra tutta la vita. Ritorno a scuola. Per tutta l'estate Laura ebbe l'impressione di non fare altro che studiare. Non era così, naturalmente. Tutte le mattine andava a prendere l'acqua al pozzo, mungeva, spostava i picchetti delle vacche, insegnava a bere al vitello, lavorava nell'orto e faceva le faccende di casa. E quando venne la stagione del fieno, aiutò papà a caricarlo sul carro per portarlo in paese. Ma le lunghe ore di caldo, a volte di afa, trascorse al chiuso, china sui libri, facevano passare tutto il resto in secondo piano. Non andò in paese neppure il 4 luglio. Ci andarono papà e mamma con Carrie. Lei rimase a casa a badare a Grace e a studiare la Costituzione. Ora Mary scriveva con regolarità e altrettanto spesso le loro lettere partivano per lo Iowa. Perfino Grace adesso sapeva scrivere qualche parola perché mamma aveva cominciato a farle scuola. Le sue letterine venivano spedite insieme alle altre. Le galline avevano cominciato a deporre le uova. Mamma mise da parte le più grosse per la cova. Così, a tempo debito, ebbero 24 pulcini. Le altre uova venivano usate in cucina. Una domenica a pranzo, con i primi piselli dell'orto e le patatine novelle, mamma mise in tavola un galletto fritto. Fu una festa. Gli altri galletti, beh, li lasciarono crescere perché diventassero più grossi e polposi. Ricomparvero i citelli. E Kitty fece grandi scorpacciate nel campo di mais. Siccome ne catturava più di quelli che riusciva a mangiare, a tutte le ore del giorno capitava di sentirla miagolare orgogliosamente e di vederla arrivare con un citello morto tra i denti che andava a depositare ai piedi di mamma o di una di loro. Intendeva far parte con loro di quel ben di Dio. E dall'espressione con cui le guardava era chiaro che non si capacitava del fatto che il resto della famiglia non bacchettasse con lei. Ricomparvero anche le gracule, e benché fossero meno dell'anno prima e Kitty riuscisse ad acchiapparne parecchie, un bel po' di danno lo fecero lo stesso. Poi tornò l'autunno, con le sue dolci giornate, e Laura e Carrie ripresero ad andare a scuola. Il paese era cresciuto e molti nuovi coloni si erano insediati nelle concessioni dei dintorni. A scuola non c'erano più banchi vuoti, anzi, in quelli della prima fila sedevano 3 bambini per banco. C'era anche un insegnante nuovo, il signor Owen, figlio di quell'Owen che l'anno precedente aveva mancato per un soffio la vittoria nella gara coi calessi del 4 luglio. I suoi bei sauri non avevano potuto reggere il confronto con i due Morgan di Almanzo Wilder. Laura lo apprezzava e lo rispettava molto. Era giovane, ma serio, volenteroso e pieno di iniziativa. Fin dal primo giorno tenne le classi in pugno. Tutti gli obbedivano e lo rispettavano e tutti studiavano. Il terzo giorno di scuola, il signor Owen batté Willie Oleson. Laura non sapeva che cosa pensare di quella vicenda. Willie non era stupido, ma non aveva mai studiato nulla in vita sua. Quando lo chiamavano a ripetere una lezione, lui restava lì, con la bocca aperta e lo sguardo vacuo. Sembrava deficiente e assumeva un'espressione così bestiale che agli altri dava quasi fastidio guardarlo. Aveva cominciato a fare così per irritare la signorina Wilder. Quando lei gli parlava, sembrava che non capisse una parola. Durante l'intervallo ripeteva le sue smorfie per far ridere i compagni. Anche il signor Clewitt si era convinto che Willy fosse un povero scemo e non gli aveva mai chiesto nulla. E Willy, a furia di fare quella faccia, ci aveva preso l'abitudine. Ora lo si vedeva sempre con la bocca a penzoloni e lo sguardo vacuo. A Laura pareva che in certi momenti Willy davvero perdesse coscienza e non fosse in grado di capire quello che gli si diceva, ma era difficile esserne sicuri. La prima volta che Willy fece scena muta con il signor Owen fu quando dovette dire come si chiamava. Il maestro lo guardò stupito e Nelly si intromise. «È mio fratello», disse. «Willy Oleson non è in grado di rispondere, qualunque domanda lo fa andare in confusione». Quel giorno e il successivo Laura notò che il signor Owen lo teneva d'occhio. Ogni tanto alzava gli occhi di scatto a guardarlo. Willy aveva sempre lo sguardo perso nel vuoto e se era chiamato a rispondere a una domanda faceva una faccia così idiota che Laura non sopportava di guardarlo. Il terzo giorno il signor Owen disse con calma: «Vieni con me, Willy». Aveva preso la bacchetta. Con l'altra mano afferrò Willy per la spalla, lo condusse nell'ingresso e chiuse la porta. Non aveva detto altro. Dal loro posto, vicino alla porta, Aida e Laura sentirono il sibilo e il colpo sordo della sferzata. L'urlo di Willy lo sentirono tutti. Il signor Owen rientrò, sempre con la mano sulla spalla di Willy. «Smettila di frignare. Vai al tuo posto e apri i libri e la prossima volta rispondi alle domande. Willy smise di frignare e tornò a sedersi. Da quel giorno bastava un'occhiata del maestro per fargli perdere, almeno in parte, l'espressione idiota. Sembrava che si sforzasse di pensare e di comportarsi come gli altri. Laura non capiva quanto effettivamente riuscisse a far funzionare il cervello dopo averlo volutamente tenuto inutilizzato per tanto tempo, ma se non altro ci provava, aveva paura a non provarci. Laura, Aida, Mary Power, Minnie e Nellie Olleson avevano ripreso i loro vecchi posti. Erano tutte abbronzate dal sole dell'estate, tranne Nellie che era più bianca e più smorfiosa che mai. Era sempre tanto elegante, anche se gli abiti glieli confezionava sua madre con ritagli di stoffa, che a Laura cominciarono a venire a noia, il suo vestito marrone da scuola e quello di cashmere azzurro della domenica. Si guardava dal dirlo naturalmente, ma ci pensava spesso. Erano tornate di moda le crinoline e mamma ne comperò una per Laura. Allungando l'orlo e ricorrendo a qualche altra piccola astuzia, riuscì a fare in modo che Laura potesse portarla anche sotto il solito abito da scuola. Quello azzurro di cashmere era così ampio che non ebbe bisogno di modifiche. Ma a Laura pareva lo stesso che le altre ragazze fossero vestite tanto meglio di lei. Mary Power aveva un abito nuovo, Minnie Johnson un cappotto e anche un paio di scarpe. I vestiti di Aida venivano tutti dai pacchi che arrivavano dall'est per le chiese povere dell'ovest, ma lei era sempre così allegra e graziosa che stava bene con qualunque cosa avesse addosso. Quando si vestiva per andare a scuola, invece, Laura aveva l'impressione che per quanto facesse non ci fosse verso di migliorare il suo aspetto. «Hai il corsetto troppo lasco», disse mamma un mattino. «Se lo stringi un po', vedrai che la tua figura migliorerà». E poi continuo a pensare che la frangia non sia l'acconciatura migliore. Le orecchie sembrano più grandi se tiri su tutti i capelli e lasci cascare quei riccioli sulla fronte. Un pensiero improvviso la fece ridere tra sé. «Che cosa c'è, ma?» chiesero Laura e Carrie. «Perché ridi?» «Mi è venuta in mente una volta che vostra zia Eliza e io ci siamo tirate su i capelli, dietro le orecchie, e siamo andate a scuola pettinate così. L'insegnante ci ha chiamate alla cattedra e ci ha rimproverate di fronte a tutta la classe perché eravamo così sfrontate da far vedere le orecchie!» Rise di nuovo. «Allora è per questo che porti la treccia così morbida con le due bande di lato che coprono le orecchie», esclamò Laura. Mamma restò un attimo interdetta. «Sì, forse sì», disse poi, sorridendo. Mentre andavano a scuola, Laura disse: «Carrie, ma lo sai che non ho mai visto le orecchie di mamma?» «Chissà come sono graziose», disse Carrie. «Tu le assomigli e le tue sono piccole e molto carine». «Comunque», cominciò Laura. Poi si fermò e si mise a girare rapidamente su se stessa perché il vento che avevano in faccia le aveva fatto salire a poco i cerchi della crinolina finché le si erano accatastati tutti sopra le ginocchia. L'unico sistema per farli tornare al loro posto era girare vorticosamente su se stessa. Allora si liberavano e ricascavano giù in fondo alla gonna dove dovevano stare. Quando ebbero ripreso il cammino, Laura disse: «Era così ridicolo il modo come si vestivano quando mamma era giovane. Uffa, questo vento!» esclamò spazientita perché i cerchi avevano ricominciato a salire. Carrie aspettò pazientemente che li facesse tornare a posto. «Meno male che non ho l'età per portare la crinolina. Mi verrebbe il capogiro a roteare così». «Sì, è una seccatura», riconobbe Laura, «ma è la moda e quando avrai la mia età anche tu vorrai essere alla moda». La vita in paese fu così densa di avvenimenti quell'autunno che papà disse che non c'era bisogno del circolo letterario. C'era la chiesa la domenica e un incontro di preghiera tutti i mercoledì sera. L'associazione femminile di carità organizzò due serate di beneficenza e si parlò anche di fare un albero di Natale. Laura sperava che il progetto andasse in porto perché Grace non ne aveva mai visto uno. In novembre poi ci sarebbe stata una settimana intera di preghiera comunitaria. E infine il signor Owen disse che con l'approvazione del consiglio scolastico avrebbero organizzato una recita della scuola. Le lezioni sarebbero continuate ininterrottamente fino al giorno della recita, previsto poco prima di Natale. I ragazzi grandi, dunque, non aspettarono l'arrivo dell'inverno, ma cominciarono a frequentare la scuola già a novembre e i più piccoli dovettero stringersi in tre per banco per far posto ai grandi. Abbiamo bisogno di una scuola più spaziosa, disse un giorno il signor Owen a Laura e Aida durante l'intervallo. Spero che il paese sia disposto a costruirla l'estate prossima. Ormai diventa necessario anche avere classi distinte. Conto molto sulla recita per far comprendere alla gente le esigenze della scuola. Disse che per quel giorno loro due dovevano prepararsi a raccontare tutta la storia americana. Laura, ce la faremo? Disse Aida quando Mr. Owen si fu allontanato. Ma certo, esclamò Laura, la storia ci piace. Sì, ma sono contenta che tocchi a te la parte più lunga. Io ho solo da John Quincy Adams a Rutherford B. Hayes. Ma tu hai tutte le scoperte, la carta geografica, le battaglie, la questione della Western Reserve, la Costituzione. Aiuto! Non so proprio come farai. È la parte più lunga, ma ci siamo stati sopra di più e l'abbiamo ripassata più spesso, disse Laura. Era contenta di avere quella parte, era la più interessante. Le altre ragazze stavano discorrendo tutte eccitate della settimana di preghiera comunitaria. In paese avrebbero partecipato tutti e sarebbe venuta anche gente dai dintorni. Laura non capiva che cosa ci fosse da entusiasmarsi tanto, perché non era mai stata una preghiera comunitaria. Ma quando disse che lei sarebbe rimasta a casa a studiare, Nelly esclamò orripilata: Come? Ma non lo sai che quelli che non partecipano alla preghiera comunitaria sono atei? Le altre non dissero nulla in difesa di Laura, ma Aida la guardava con uno sguardo implorante, come a dire: Ci verrai anche tu, vero Laura? Le serate di preghiera comunitaria sarebbero durate una settimana di fila, ma durante il giorno c'erano la scuola e la recita da preparare. Il lunedì pomeriggio Laura si precipitò a casa per studiare fino all'ora di cena, ripassò storia lavando i piatti e si ritagliò un momento per finire una lezione, anche mentre papà e mamma si vestivano. Sbrigati, Laura, o facciamo tardi, è ora di andare in chiesa, disse mamma. Sostando un attimo davanti allo specchio, Laura indossò l'amato cappello di velluto e si aggiustò i riccioli sulla fronte. Mamma aspettava sulla porta con Carrie e Grace. Papà chiuse la ventola della stufa e abbassò lo stoppino della lampada. Pronte? Soffiò sulla fiammella e uscirono facendosi luce con la lanterna. Papà chiuse la porta a chiave. Non c'era una sola finestra illuminata in tutta Main Street. Si vedeva invece una fila di lanterne andare verso la chiesa, attraverso i terreni incolti dietro la bottega di Fuller. In fondo la chiesa era tutta illuminata e intorno c'erano carri e carretti e cavalli legati ai pali. La chiesa era strapiena. Le lampade e la stufa scaldavano l'ambiente. Nei banchi più prossimi al pulpito avevano preso posto gli anziani. In quelli centrali c'erano le famiglie con donne e bambini, uomini e ragazzi erano in fondo. Mentre seguivano papà in cerca di un posto, Laura vide tutti quelli che conosceva e anche molti sconosciuti. C'era un po' di spazio in uno dei primi banchi e per sedersi dovettero sfilare davanti a diverse persone. Il reverendo Brown salì sul pulpito, disse che avrebbero cantato l'inno 154 e la signora Brown cominciò a suonare l'organo. Tutti si alzarono in piedi per cantare. 99 stavano al sicuro tra le pareti amiche dell'ovile, ma una pecorella era smarrita tra aspri monti e lande desolate, lontano dai cancelli della grazia, lontano dalle cure del pastore. A Laura sarebbe piaciuto che quella sera fossero state lì solo per cantare. Anche se continuava a dirsi che forse sarebbe dovuta rimanere a casa a studiare, la sua voce saliva limpida in mezzo al coro, forte e chiara come quella di papà. Rallegratevi perché il divino l'ha salvata, all'ovile sana e salva l'ha portata. Poi però cominciò una lunghissima preghiera. Laura chinò la testa, chiuse gli occhi e se ne stette lì immobile, mentre il reverendo cantilenava interminabilmente dal pulpito. Fu un sollievo quando finalmente si alzarono in piedi di nuovo. Questa volta era un inno diverso, con un ritmo pulsante veloce che faceva battere il sangue nelle vene. Seminate nella luce dell'alba, seminate nel calore del giorno, seminate nella limpida sera, seminate nella notte più nera. Oh, che messe sarà, oh, che messe nell'aldilà. Anche la voce del reverendo, quando cominciò a predicare, aveva preso un ritmo pulsante. Il tono saliva e scendeva, rombo di tuono e fremito di vento. Le folte sopracciglia bianche si alzavano e si abbassavano nel volto severo. Il pugno picchiava sul pulpito. Pentitevi, voi peccatori! Pentitevi finché potete! Pentitevi finché c'è tempo di sfuggire alla dannazione! Laura sentì un brivido correrle lungo la schiena e i capelli rizzarsi sulla nuca. Le parve che qualcosa si levasse da tutta quella gente ammassata, qualcosa di oscuro e pauroso che si librava nell'aria, evocato dal ruggito di quella voce. Non capiva neppure più l'argomento del sermone. C'era solo una cascata di parole terribili e spaventose. Per un istante orribile le parve che al posto del reverendo Brown ci fosse il maligno in persona, con occhi che mandavano fiamme. Venite, venite avanti, venite alla salvezza, pentitevi voi peccatori, in piedi, cantate, o pecorelle perdute, fuggite alla perdizione, venite, venite alla salvezza. Le mani li tirarono in piedi, la voce prese a cantare. Qui è l'approdo navigante, qui è l'approdo di salvezza. Venite, venite, ruggiva la voce in mezzo alla tempesta del canto. Un giovane venne avanti dal fondo della chiesa, incespicando, barcollante e stravolto in viso. Non ti fermi la tempesta, non ti arresti la burrasca. Tu sia benedetto, fratello peccatore, in ginocchio, in ginocchio. Dio ti benedice. Chi altro verrà al pentimento? Chi altro? Gridò il reverendo. E poi il rombo della sua voce tornò a unirsi al canto. Qui è l'approdo di salvezza. Lì per lì le parole dell'inno avevano ricordato a Laura lo spilungone e il suo compare piccoletto che se ne andavano cantando a squarciagola per Main Street, sfasciando una zanzariera dopo l'altra, e le facce allibite e furenti dei bottegai che uscivano fuori imprecando. Le venne quasi da ridere, ma poi quel cantare frenetico e l'eccitazione che avvertiva nella folla intorno a lei non le piacquero. Guardò mamma e papà. Cantavano tranquilli, lì in piedi accanto a lei, mentre intorno ruggiva come una tempesta quella cosa oscura e spaventosa che aleggiava nell'aria. Venne avanti un altro giovane, poi una donna più anziana, anche loro caddero in ginocchio. Era finita, ma non del tutto, perché c'era ancora gente che veniva avanti per stringersi attorno a quei tre, strappare le loro anime alla perdizione. Papà mormorò a mamma: Vieni, andiamocene. Prese Grace in braccio e si avviò verso la porta. Mamma gli andò dietro con Carrie e Laura li seguì. Negli ultimi banchi tutti i giovani e i ragazzi stavano in piedi a guardare la gente che usciva. Lei si sentì a disagio, teneva lo sguardo fisso avanti, alla porta, come fosse la via di scampo da tutti quegli occhi che aveva addosso. Non si accorse che una mano le si era posata sulla manica del cappotto, finché una voce disse: Posso accompagnarla a casa? Era Almanzo Wilder. Restò così sbalordita che non rispose, non fece neppure sì o no con la testa. La mano restò sul suo braccio e lui le si incamminò accanto e uscì con lei dalla chiesa. Nella strettoia della porta la difese dal pigia-pigia della gente che si accalcava per uscire. Papà aveva acceso la lanterna, abbassò il vetro e alzò gli occhi nell'attimo in cui mamma diceva, voltandosi indietro, Ma dov'è Laura? Tutti e due videro Almanzo Wilder accanto a lei. Mamma si raggelò. Andiamo, Caroline, disse papà. Mamma lo seguì e con un'occhiata stupefatta Carrie le andò dietro. Il terreno era coperto di neve e faceva freddo, ma non c'era vento e in cielo brillavano le stelle. Laura non riusciva a pensare una sola parola da dire. Sperava che fosse il signor Wilder ad attaccare discorso. Dal suo giaccone emanava un lieve sentore di sigaro. Era gradevole, ma non quieto e familiare come l'odore della pipa di papà. Era un profumo più intenso e ardimentoso che le fece venire in mente il viaggio spericolato che quel giovanotto aveva fatto con Cap Garland per andare a prendere il frumento l'inverno precedente. Con sua assoluta sorpresa si sentì dire: Comunque non c'è bufera. No, è un bell'inverno, non come quello passato. Disse lui. Poi ci fu di nuovo silenzio, a parte lo scricchiolio dei loro passi sulla neve gelata. In Main Street, gruppi di figure scure si affrettavano verso casa, tra un dondolio di lanterne che proiettava grandi ombre danzanti attorno. La lanterna di papà attraversò la strada e un attimo dopo papà, mamma, Carrie e Grace scomparvero oltre la soglia. Laura e Almanzo si fermarono davanti alla porta chiusa. Beh, Buonanotte, disse lui, facendo un passo indietro e levandosi il berretto. Ci vediamo domani sera. Buonanotte, disse Laura, aprendo in fretta la porta. Papà non aveva ancora spento la lanterna, in attesa che mamma accendesse la lampada. Stava dicendo: affidabile, l'ha solo accompagnata a casa. Ma ha solo 15 anni, disse mamma. Laura chiuse la porta. Era in casa. C'era il lume acceso e tutto era come doveva essere. Allora, che te ne è parso della preghiera comunitaria? Le chiese papà. Beh, non è come i pacati sermoni del reverendo Holden, disse Laura. Mi piacevano di più quelli. Anche a me, ammise papà. Poi mamma disse che era passata da un pezzo l'ora di andare a dormire. L'indomani Laura si chiese più volte che cosa intendesse il signor Wilder dicendo che si sarebbero visti quel giorno. Perché l'aveva accompagnata a casa? Era una cosa strana da parte sua, perché lui era un adulto. Aveva una concessione già da un paio d'anni, doveva avere almeno 23 anni, era amico di papà, non suo. Quella sera non stette a sentire il sermone e quando avvertì che la gente cominciava a scaldarsi, desiderò solo andarsene. Fu contenta quando papà finalmente disse: andiamo. Almanzo Wilder era tra i giovani che facevano ala alla porta e Laura si sentì avvampare. Quando si accorse che diversi giovani accompagnavano a casa una ragazza, arrossì ancora di più. Non sapeva dove guardare. Lui disse di nuovo: posso accompagnarla a casa? Ma questa volta lei riuscì a rispondere garbatamente: sì. Nel corso della giornata aveva pensato a cosa dire. Cominciò a parlare del Minnesota, disse che venivano dal Plum Creek. Lui veniva da Spring Valley, ma prima ancora avevano abitato a Mellon, nello stato di New York. A Laura parve di riuscire a fare conversazione come si conveniva, finché finalmente furono davanti a casa e poté dire buonanotte. Quella settimana Almanzo Wilder la accompagnò a casa tutte le sere. Laura continuava a stupirsene, ma la settimana finì e lei tornò a studiare. Smise di pensare ad Almanzo Wilder e cominciò a preoccuparsi della recita scolastica.